Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Cresce in Europa il trasporto merci su strada. In base agli ultimi dati disponibili, nel 2014 c'è stato infatti un lieve recupero dello 0,4% rispetto al 2013. Restano ancora lontani però i livelli del 2007. Nell'ultimo decennio, infatti, il trasporto merci su strada ha subito una riduzione complessiva del 10,4%. Diverso invece il discorso per quel che riguarda l'Italia, che pare non essere ancora riuscita ad agganciare pienamente la ripresa e che, dopo la leggera crescita del 2013, nel 2014 è scesa di nuovo di 2,6 punti percentuali. Eppure, il trasporto su strada risulta essere la modalità prevalente anche nel nostro paese. In particolare, circa il 65% dei trasporti su strada si svolge all'interno dei confini nazionali, il restante a livello internazionale. A scattare la fotografia è ANFIA, Associazione Nazionale Filiere Industria Automobilistica, con un focus realizzato sulla base dei dati di Eurostat e che dipinge il quadro di un settore in movimento, nonostante la forte crisi, e caratterizzato dal ruolo sempre più rilevante dei paesi dell'Est. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Da sempre c'è un filo sottile, ma non troppo, che lega il mondo produttivo e quello dei trasporti. Quando l'economia va male, i primi a risentirne sono coloro che le merci le muovono. Quando ci sono segnali di ripresa, vengono percepiti per primi proprio dalle imprese di trasporto. Qualche giorno fa è stata pubblicata un'attenta analisi sulla situazione del trasporto merci su strada in Europa e ne parliamo in compagnia dei nostri ospiti. La curatrice di questa analisi, Marisa Saglietto, responsabile del Centro Studi di ANFIA, che è l'Associazione Nazionale della Filiera Automobilistica, e a commentare questi dati Pasquale Russo, segretario generale di Conftrasporto. Dottoressa Saglietto, allora, un'Europa dei trasporti su strada che cresce nel 2014 mentre l'Italia rimane ferma al palo, anzi addirittura decresce. Una situazione che in qualche modo riflette quella della nostra economia. Il traffico di merci su strada movimentato nell'Unione Europea è cresciuto, leggermente cresciuto nel 2014 e si pone a livelli piuttosto stabili come quota di trasporto merci rispetto a tutte le altre modalità nel corso dell'ultimo decennio, però rimane comunque inferiore del 10% ai volumi movimentati negli anni record 2007-2008. La situazione dell'Italia è in effetti molto più grave, il traffico delle merci ha perso dal 2008 al 2014 il 35% del volume e bisogna anche dire però che, come giustamente ha detto lei, questo riflette anche un crollo della produzione industriale che è stato molto più pesante rispetto ai major markets dell'Unione Europea. Certo. Russo, meno 35% dal 2008 al 2014, un crollo del trasporto delle merci su strada che ha trascinato con sé ovviamente anche le imprese di autotrasporto italiane. Sì, noi avevamo analizzato i dati che ci sono arrivati da Unioncamere nel corso proprio del periodo della crisi preso in esame dallo studio dell'ANFIA e dai dati di Unioncamere si certifica che c'è stata una chiusura delle aziende proprio in questo periodo di almeno 25.000 imprese, quindi è evidente che il calo dei volumi si è fatto sentire, ha falcidiato le imprese e tuttavia in un contesto di crisi generalizzato era fisiologico che questo colpisse anche il mondo dell'autotrasporto. Certo. Dottoressa Saglietto, veniamo al trasporto internazionale, che è un segmento che è in crescita in tutta Europa, secondo appunto il vostro studio. Ci sono però alcuni paesi, come quelli dell'Est, dove il trasporto internazionale ha addirittura un peso maggiore rispetto a quello nazionale. Sì, diciamo che il paese principe del trasporto internazionale è la Polonia, che trasporta quasi il 25% di tutto il trasporto internazionale fatto nell'Unione Europea. ha volumi significativi anche la Spagna, e diciamo che la gran parte di questi trasporti internazionali è effettuato da trasportatori immatricolati in uno dei paesi tra i quali avviene il trasferimento delle merci. Dottor Russo, tutto questo traffico che parte dai paesi dell'est dove va a finire? Ma qui c'è un dato secondo me che è un numerico ed è quello che ci ha rappresentato lo studio dell'ANFIA. C'è invece una valutazione che dovrebbe essere fatta, che è di natura un po' più ampia e che riguarda il fatto che molte imprese italiane e non solo hanno deciso di spostare la propria residenza, la propria sede, e uno dei primi paesi in cui si sono, perché è stato uno dei primi ad entrare in Europa, uno dei primi paesi in cui si sono spostati moltissime imprese italiane è proprio la Polonia. Quindi questo probabilmente ci restituisce anche la dimensione del fenomeno e ci spiega anche quale può essere uno dei motivi che vede la Polonia così presente sui traffici internazionali. Veniamo ad un tema, dottoressa Saglietto, che è sicuramente molto caro all'autotrasporto italiano, che è quello del cabotaggio, cioè della possibilità offerta alle imprese estere di effettuare trasporti con origine e destinazione nel nostro paese. Questa è la differenza anche rispetto al trasporto internazionale. In Europa la media delle attività di cabotaggio è stata nel 2014 del 2% circa del totale delle merci, ma da questo vostro studio emerge anche come l'Italia sia il terzo paese europeo destinatario di cabotaggio. C'è un dato che è abbastanza curioso, dottoressa Saglietto, che è quello della Germania, che è il principale paese che effettua cabotaggio in Italia, è così? Tra i paesi che praticano maggiormente il cabotaggio c'è anche la Germania, il primo paese in cui destina il cabotaggio è la Francia e il secondo è l'Italia. Dottor Russo, sembra strano, le imprese italiane di solito pensano di dover, come dire, competere con quelle dei paesi dell'est, invece da questa analisi emerge che un competitor preoccupante per le imprese italiane è rappresentato proprio dalla Germania. Sì, questo secondo me ci induce a fare una riflessione, anche se lascia inalterato il tema che noi abbiamo più volte posto, cioè sulla necessità che le imprese italiane siano incentivate a restare in Italia. In questo senso voglio approfittare dell'occasione per ricordare che c'è una misura del governo presente in questa finanziaria che consente a tutte le imprese di autotrasporto italiano che praticano trasporto internazionale di avere una decontribuzione sui propri conducenti dell'80%, proprio diciamo per raggiungere quell'obiettivo o comunque per cercare di rendere più competitive le imprese italiane nel contesto internazionale e quindi anche per incentivare le imprese a non spostare la propria sede. Quindi il tema della competitività delle imprese italiane e della necessità di mantenere questo asset fondamentale per il nostro paese, che è quello dell'autotrasporto merci, è un tema che c'è ed è legato soprattutto alla competitività dei costi. Tuttavia, come le diceva, c'è questa riflessione che va fatta, e cioè il cabotaggio viene effettuato principalmente dai vettori tedeschi, che certamente non sono dal punto di vista dei costi più competitivi delle imprese italiane. È chiaro che però va tenuto conto di un aspetto, e cioè che molto scambio commerciale in export l'Italia ce l'ha con la Germania, e anche qui un'ulteriore riflessione: evidentemente i produttori tedeschi si fidano dei propri vettori al di là di quello che è il costo praticato per il singolo trasporto, e quindi qui una valutazione va fatta, cioè non sempre la competizione o non solo la competizione si gioca sul costo, ma probabilmente anche certo, su un'altra serie di certo, fattori. Di fattori che vanno assolutamente analizzati. Bene, termina qui anche questa puntata di Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Prima di lasciarci vi ricordo che questa è una produzione realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori. Vi ricordo anche il nostro indirizzo email container@radio24.it. Il nostro appuntamento ritorna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato.